Scherzate, gioite, godete, pastori, che fanno il timore dall'alma bandite. Annunzio gioco a mo' di voce m'apporto, prendete conforto che è nato per Cristo, per salute al mondo. Scherzate, gioite,